grandi mostre vicino a noi, aperte da poco. Una l'abbiamo presentata la puntata precedente, dedicata a Toulouse-Lautrec. Ora ci spostiamo, anzi ci avviciniamo, ma oddio, la distanza da Bologna per quanto riguarda la capitale polesana con Palazzo Roverella di Rovigo, e spostandoci verso la Romagna, Musei San Domenico di Forlì, direi che è qui distante. Resta come filo conduttore la grande esposizione e la qualità di rassegna espositiva. Protagonisti, i miei amati preraffaelliti. Amati, odiati preraffaelliti, beh, quando si dice così vuol dire che è veramente un amore assolutamente dichiarato, Sì, sono artiste e artisti che portano tante sensazioni, tra cui la poesia, la letteratura, per quanto riguarda un dialogo al di fuori di un'espressione figurativa, meramente figurativa. No, c'è tanto di più, c'è un simbolismo, questo sì, amato simbolismo, e quindi automaticamente la realtà preraffaellita, il preraffaellismo, questa confraternita di epoca vittoriana, riferimenti shakespeariani, l'aspetto cromatico e tonale che è un fondamentale secondo me nell'espressione preraffaellita, e la musica, beh, per quello azzardato io, no? Rinascimento moderno, preraffaelliti, rinascimento moderno. Allora, per quanto riguarda una elaborazione di tutto ciò, ho preso un artista che amo tantissimo, che è Federica Michisanti, ed è una preraffaellita a tutti gli effetti, e per quanto riguarda l'apertura di playlist, invece, a proposito di rinascimento moderno, beh, secondo me l'interprete al pianoforte, Brad Beldau, a tra poco. Romanticismo, emozione da decadentismo, da cui un grandissimo John Ruskin, eppure tutto in età vittoriana, aspetti cromatici, colori stupendi. Dopo i miei amati veneziani nel Rinascimento veneziano, per me i preraffaelliti sono portatori di colori assolutamente coinvolgenti, anche se non si possono fare poi delle classifiche, ci mancherebbe. Preraffaelliti, o meglio The Brotherhood, la confraternita che voleva così rifarsi a una purezza però anti-accademica. Ecco, perché ce l'hanno con Raffaello? Questa è sempre stata, ma in realtà non è esattamente così, Ne abbiamo parlato con Francesco Parisi, chiaramente già dal nome che ci porta a un prima, per così dire, come sensazione. Nei contenuti addentreremo la passeggiata in mostra grazie alla co-curatela di Francesco Parisi, che è lo stesso co-curatore della mostra dedicata a Toulouse-Lautrec. Iniziamo. Chi erano i preraffaelliti? La confraternita preraffaellita nasce nel 1848, un'idea di Millet, Hunt e Dante Gabriele Rossetti. Erano tutti e due studenti della Royal Academy School, e Rossetti frequentava un po' meno. Millet era uno dei talenti, insomma, evidenti tra i giovani artisti, ma erano dei giovanissimi, e tutti e tre avevano cominciato a ribellarsi, come è tipico dei giovani, a ribellarsi a due figure che possiamo dire due figure paterne in un certo senso per l'arte dell'Ottocento: Raffaello ovviamente e soprattutto Sir Joshua Reynolds, che era stato il direttore anni prima della Royal Academy. E Reynolds, proprio Reynolds, aveva indicato nei suoi discorsi Raffaello come un esempio da seguire. Non ci dimentichiamo che Gabriel era figlio di Gabriele Rossetti, che era un carbonaro del fuoriuscito dall'Italia, cioè un rivoluzionario italiano anche con il gusto per gli intrighi. Quindi la questione del nome confraternita evocava un po' questa di setta segreta, come possiamo dire. A queste tre figure poi si unirono altri, lo scultore Gunner e due pittori, diciamo, di minor talento, Collinson e Stevens. Su tutti poi ovviamente dominava la figura intellettuale del fratello di Gabriel, che era William Michael. Il nome all'inizio era, non sapevano bene come chiamarsi e si erano dati il termine inizialmente di paleocristiani o primitivi a seconda della traduzione. Raffaellismo in musica. La nostra Elisabeth Siddà, l'artista e musa ispiratrice di Gabriel Dante Rossetti e Federica Michisanti, accompagnato da un altro preraffaellita in musica, Luis Clavi. Padre di Gabriel Dante Rossetti, ovviamente origine italiana, no? Dal cognome, ed era un ribelle cospiratore, sfuggito peraltro, in quanto carbonaro, e nella carboneria, come ben sapete, appunto la setta, l'idea di confraternita, e anche per questo arrivò il nome, pensate, dai preraffaelliti a confraternita. Ecco, questa specificità ad esempio non lo sapevo. Francesco Parisi, allora Francesco Parisi ha la capacità, lo seguo come curatore, come Stefano Roffi, come Paolo Bolpagni, insomma ormai sono redattore, ed è una grande fortuna poter parlare con storici dell'arte e curatori. Francesco Parisi ha la caratteristica di presentare in maniera assolutamente forbita, ma di dare una visione da un'angolazione diversa per quanto riguarda le nozioni, almeno da me studiate, per quanto riguarda il movimento preraffaellita. Quindi una sorta di complemento in questa conversazione, di presentazione di un rinascimento moderno ai Musei San Domenico. Siamo a Forlì, esposizione prestigiosa, ricchissimissimissima tra l'altro, qui quindi è una delle mostre che caldeggio di più per quanto riguarda i contenuti della rubrica in mostra. Certo, tutte hanno egual importanza, troviamo però un'estensione nel tempo e tantissime opere in mostra con un percorso di cui avremo poi approfondimento con il co-curatore Francesco Parisi. Intanto è arrivato il nome Confraternita dei Preraffaelliti. E poi un giorno, insomma, così parlando con altri studenti, uscì fuori il termine Preraffaellita e quindi unirono Confraternita a Preraffaellita. Ecco come nasce, insomma, sostanzialmente il movimento. Ecco, questo era. Bisogna tener conto anche una cosa importante, la questione del revival rinascimentale che li animava. Diciamo che in quegli anni, in epoca vittoriana, c'era una sorta di indeterminatezza storica, quasi tutto l'arte prima del 1500 era considerata medievale, e bisogna anche pensare e riflettere sul fatto che quando stilarono il programma, possiamo dire sì, un programma ideologico, misero tra gli artisti che venivano considerati immortali lo stesso Raffaello. Questo non ci deve ovviamente, possiamo dire, creare, diciamo, come, no? Si chiamano Preraffaelliti e poi mettono Raffaello tra gli artisti che loro considerano immortali. Ovviamente la grandezza di Raffaello non era in discussione, semplicemente loro avevano identificato nella trasfigurazione di Raffaello, diciamo, un momento di decadenza dell'arte italiana, no? Per gli atteggiamenti pomposi dei santi, il Cristo un po' stereotipato. Ecco, da qui nasce l'idea proprio del termine e dell'ispirazione preraffaellita. Ah, ecco, ok. La grandezza di Raffaello non è messa in discussione, del sanzio, della meraviglia assoluta di uno dei più grandi, titano dell'arte, così giovane, scomparso, si dice, per amore di una grande sofferenza e di una capacità d'espressione, ma veramente tutti i tempi. No, non è che non è un attacco al talento, talento, direi divinità. Quindi siamo entrati in alcuni concetti, però noi vogliamo sapere le modalità di questo ribellarsi, come portavano tutto ciò. Quindi, beh, per quanto mi riguarda, io li riconosco subito, soprattutto dal racconto, l'Ofelia adagiata sul letto del fiume, uno dei dipinti, ma chiaramente tanti altri, la figura di Elisabeth Sidal Millet, artista clamoroso, lo stesso Gabriel Dante Rossetti, artista anche lui al pari dello stesso Millet, fondamentale, il fratello William Michael Millet, anche critico e teorico, se vogliamo, del movimento preraffaellita. E quindi conosciamone anche le modalità di tutto ciò. In questi pochissimi anni di durata della confraternita, scelsero soggetti che avevano che fare più o meno con i temi, possiamo dire, morali, ma anche sociali e politici. Il tutto con un'impostazione che possiamo dire derivante da alcuni modelli, come dicevamo appunto, pre-raffaelliti, nel senso di prima di Raffaello. Erano temi che per la maggior parte del, possiamo dire, del pubblico, no, dell'epoca, erano poco familiari o anche potevano risultare in un certo senso anche sconcertanti, e soprattutto avevano iniziato ad adottare una tecnica che era allo stesso tempo realistica ma anche sperimentale. Pensiamo che Hunt soprattutto iniziava dipingendo la tela uno strato di bianco e lavorava sul colore bianco fresco, insomma, per avere una brillantezza che tutti vediamo poi nei suoi dipinti. Sostanzialmente loro detestavano tutte quelle forme di esecuzione che erano considerate graziose, raffaellesche, con quella piccola, con quella grazia, diciamo, un po' così scontata, ecco, in un certo senso, e che loro definivano con un termine tipo sciatte. Beh, adesso sciatte. Non esageriamo, insomma, se vogliamo, per chi non apprezza quel percorso passato, se vogliamo passatiste, canoniche, però dal punto di vista della tecnica, delle immagini, e poi stiamo parlando di un rinascimento, eh. Certo, però questi giovani, insomma, lo sapete, no? Lo sappiamo come sono. E quindi sia dalle tecniche, ma anche dal soggetto, anche dall'atmosfera che veniva riportata, allo stesso tempo non così graziose, beh, io direi che una grazia diversa, ecco, questo vuol dire essere assolutamente molto rivoluzionari, eh? Questi pre-raffaelliti mi faranno addannare, guarda, perché appunto ce ne sarebbe da dire veramente a profusione. Del resto la mostra è assolutamente estesa, un po' di musica, pubblicità, poi si ritorna in diretta e continueremo a conoscere questa nostra anteprima che ci porta ai musei di San Domenico a Forlì, e sarà fino al 30 giugno, quattro dischi della nostra Elizabeth Siddal per i Pre-Raffaelliti. Stiamo ascoltando Silent Rites, è un'altra formazione, stiamo andando a ritroso nei suoi percorsi, Horn Trio, e qui stiamo ascoltando l'incontro, appunto, Horn Trio, perché oltre alla Federica Michisanti al contrabbasso troviamo Francesco Bigoni, lui sassofonista ferrarese tra i talenti più riconosciuti, e Francesco Lento, come stiamo ascoltando, alla tromba. È la colonna sonora all'esposizione quanto mai estesa, e infatti abbiamo nella prima parte, allora, contesto storico, Pre-Raffaelliti, nascita, perché contenuti di distacco di questa sorta di ribellione. Ora però è il momento di entrare in mostra, insomma, eh? Si dipana in circa 320 opere, se non ricordo male, più o meno siamo riusciti, e qui ci tengo anche a citare gli altri curatori, ovviamente Cristina Acidini, Elisa per la parte della pittura rinascimentale, ovviamente, e Peter Trippi ed Elizabeth Prestigeon, tutti diretti magistralmente in maniera straordinaria da Gianfranco Brunelli. Senza di lui non si sarebbe fatto niente di tutto questo che potete vedere ai Musei di San Domenico. Quindi la mostra, più o meno oltre 300 opere, è scandita per sezioni cronologiche da cui poi si dipanano vari focus di approfondimento. Si parte ovviamente dal neogotico, no? Che è un po' alle origini del pre-raffaellismo, un terreno, possiamo dire, il terreno di cultura su cui è nata la confraternita, ovviamente dall'opera del più grande teorico neogotico inglese, che è Augustus Welby Tuwin, e che si poneva come, diciamo, in antitesi questa revival del Medioevo, in antitesi alla tradizione architettonica del neoclassicismo, poi sostanzialmente del neorinascimento classico, insomma, così considerato anche in funzione antifrancese. Sì, e la figura femminile è un tema oggi molto dibattuto, molto acceso, no? Quello della presenza delle artiste femminili, e ovviamente la donna è soprattutto nella seconda fase del pre-raffaellismo, ancor più nell'aesthetic movement, la donna era assolutamente centrale. Considerate che anche molte di queste figure modelle erano esse stesse pittrici. Me ne viene in mente una, forse la più importante, Mary Spartalis Tillman, che era la figlia di un ambasciatore greco considerato di una bellezza unica e straordinaria, che aveva posato per Rossetti e posò anche per uno dei più importanti pre-raffaelliti italiani, che era Giulio Aristide Sartorio. Anche la figlia di Mary Spartalis Tillman divenne pittrice, ovviamente seguendo il filone pre-raffaellita, diciamo, la tendenza pre-raffaellita. E c'era anche la figura di Lizzie, di Elizabeth, no? Sì, ovviamente, sono cose che oramai appartengono quasi, Jane Morris e Siddal appartengono, diciamo, al mito. Anche la stessa moglie di John Ruskin, Effie, era stata la moglie di Ruskin, poi con un grosso scandalo si separarono e Effie divenne la moglie di Millet. Ecco, abbiamo anche il gossip, pensate, la moglie di John Ruskin, si lasciano, questa storia d'amore appunto profondissima, si lasciano e lei si mette con Millet. Non deve aver presa benissimo John Ruskin, di lui non consiglio ma obbligo la lettura a proposito di decadentismo, de Le pietre di Venezia. Thank you. è una composizione basata su un interplay neoclassico, una scrittura chiaramente che è tutti i tempi, oltre che, ok, sto parlando del mio gusto personale nella ricerca musicale, ma è un gusto, dico, tutti i tempi, perché possiamo ascoltare veramente una micro sensazione che prevarica nel corso della storia e nello studio musicale, classicità che arriva poi al contemporaneo, aggiungendo, come ho già portato all'attenzione delle ascoltatrici e gli ascoltatori, questo interplay in jazz. Non potevo evitare alcune domande personali per quanto riguarda sia l'aspetto, diciamo, legato al simbolismo, sia per quanto riguarda il colore. Insomma, ho portato anche alcuni aspetti che mi interessavano particolarmente, magari interessano anche a voi. L'aspetto cromatico ha dei colori particolarmente affascinanti. Qui sto facendo un'osservazione personale che esce un po' dalla schematicità delle domande. Ci puoi dire qualcosa di più, Francesco? Beh, bisogna ragionare innanzitutto sull'arco cronologico, cioè i dipinti della Confraternita dal 48 al 51 hanno, se noi pensiamo appunto ad alcuni quadri di Hunt, hanno questa, possiamo dire, luccicanza, questa brillantezza incredibile. Poi dobbiamo considerare che la tendenza pre-raffaelita dura circa 70 anni, cioè si arriva fino agli anni 20. In mezzo, ovviamente, come possiamo immaginare, la storia dell'arte procede a grandi passi e quindi cambiano le influenze, si arriva dagli autori come influenza massima, si parte da Piero della Francesca e si arriva addirittura a Guido Reni con Lord Leighton. Quindi in questo potete ben immaginare come in 70 anni cambino tavolozze, cambino forme. Diciamo, quello che più risalta è il nodo centrale del preraffaellismo dopo la Confraternita, appunto l'Aesthetic Movement, quando tutti i componenti del gruppo si rivolgono, piuttosto che a Firenze, si rivolgono a Venezia e pittura veneta. E quindi c'è quel famoso, quelle donne straordinarie che vediamo in Friedrich Sandys, anche in Milema, soprattutto in Rossetti, il famoso rosso Tiziano, no? Queste sì. Donne con questi capelli straordinari, fluenti, con questa tonalità di capelli meravigliosi. Queste pennellate di colori che portano la playlist, la colonna sonora odierna, per quanto riguarda la rubrica in mostra pre-Raffaelliti, un rinascimento moderno, sarà ai Musei San Domenico sino al 30 giugno, per cui abbiamo possibilità. Io penso che non siano rimaste più opere, sono state portate tutte a Forlì per questa esposizione. Insomma, beh, ne abbiamo la possibilità, un'occasione da non perdere, ed è veramente una passeggiata che ricopre un arco storico e una frazione nell'arte, secondo me, veramente molto importante. Come vi dicevo, alcune impressioni, e non può mancare il riferimento col simbolismo. Riferimenti letterari shakespeariani? Ovviamente buona parte della cultura inglese, no? Risente ovviamente del grande bardo, quindi insomma ce ne sono tantissimi, in più versioni, per molti riletti attraverso anche la poesia contemporanea, Shelley e Tennyson soprattutto. Può essere un sottoinsieme, cioè una specificità, un sottoinsieme del movimento simbolista? Beh, è ovvio che come dicevo, il gusto pre-raffaellita arriva fino agli anni 20. Il movimento simbolista è di per sé un movimento, come diceva Argan, di matrice revivalista, quindi molto spesso le due cose coincidono, e questi revival, soprattutto se pensiamo al simbolismo che si sviluppa principalmente in Francia, come sappiamo in Germania ma anche in Italia, ma soprattutto appunto in area francofona, aveva proprio le forme del revivalismo rinascimentale. Qui basti citare il nome di Josephine Peladan e il Salon de la Roque. Sì. E durata dell'esposizione sarà fino al? Fino, credo, a fine giugno, forse il 30 giugno, se non ricordo male. Un'altra grande mostra, abbiamo la possibilità ai Musei San Domenico. Io ringrazio tantissimo il co-curatore Francesco Parisi e avremo modo di risentirci per incontri e mostre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Grazie e buona giornata. Grazie a lei. Non può che essere questa la sigla di conclusione. Green Sleeves, maniche verdi. Alla visione di un'immagine che magari pubblico è My Lady Greensleeves, raffigurata da Dante Gabriel Rossetti nel 1864, un'opera di una bellezza. E qui John Coltrane, dopo ci sarà un assolo, ci sarà un pianismo di McCoy Tyner, non ve lo posso far ascoltare tutto, magari lo ascolteremo domani perché ha a che fare anche in scena con lo spettacolo. Domani avremo ospite, ho contattato per l'anticipazione telefonica Monio Vadia per uno spettacolo al Comunale di Ferrara, ed è, ha delle attinenze perché siamo nel periodo, per quanto riguarda l'ispirazione di scrittura tra storia e leggenda, Enrico VIII d'Inghilterra per la sua futura consorte Anna Bolena riporta insomma queste note, perché si dice, la leggenda narra, purtroppo ferita ad una mano, si presentava con questi abiti dal verde pre-raffaellita, se vogliamo, no? Con la mano semicoperta per non far vedere la cicatrice, quindi lui ha giustamente creato maniche verdi, green sleeves. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento a domani in scena, ma vi ringrazio per l'attenzione, per aver fatto colazione con il Breakfast Club. Brad Meldau, ampio spazio a Federica Michi Santi e le sue formazioni, per i pre-raffaelliti la chiusura con Greensleeves di John Coltrane. Domani andremo in scena, le immagini del pre-raffaellismo sono state illustrate da Francesco Parisi, e in conclusione, con un caloroso abbraccio, vi auguro un buon ascolto sulle frequenze dei 103.1, a breve di Pen Enciclopedico, Liberi Dentro, avremo poi Grande Rock con Angela Zocco e Andrea Gozza fino alle 12.30, non dimenticate rassegna stampa dalle 9.30, e con questo vi abbraccio, servo vostro William Piana, da appuntamento a domani, ciao a tutte, ciao a tutti.